This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Buonasera a tutti e benvenuti all'ascolto di This Is Not an Exit per questo giovedì 22 ottobre. Siamo in diretta dai studi di Radio Città del Capo e voi probabilmente siete a casa, in macchina, sintonizzati ai 94.7 o ai 96.25, oppure magari siete più lontani e siete in streaming, chi lo sa. Comunque, benvenuti a tutti e buon ascolto e buonasera anche al dottor Scarpa qua in regia con me. Buonasera, dottor Ferrari, abbiamo anche ospite il gradito Matteo, che intanto viene a trovarci. Salutiamo anche lui, salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori e oggi, novità, ogni tanto tiriamo fuori qualcosa di femminile. Una bella signorina, insomma, abbiamo sempre fatto sentire ultimamente barbuti della periferia, comunque loschi individui. O capelloni, stasera facciamo ascoltare una bella signorina, classe 69, viene dall'Inghilterra, lei è PJ Harvey. Sì, d'altronde non potevamo sfondarvi le orecchie ancora lungo impunemente, quindi abbiamo pensato, mettiamo cose anche più conosciuto, quindi facciamo finta di essere alla fine del 93 quando esce appunto questo Rid of Me. Ma prima era uscito un altro disco su Too Pure, Rid of Me esce già su un'etichetta un po' più grande, ma ne parleremo dopo. Parliamo oggi di PJ Harvey dal Dorset, sud dell'Inghilterra, un artista insomma che mancava per il panorama inglese. Era ai tempi di Siouxsie che non usciva fuori una cantante con il carisma tale, e lei che si presenta insomma in topless sulla prima pagina di una rivista musicale inglese fa scalpore, e poi dischi che comunque parlano di machismo, misoginia, e insomma sono dischi che praticamente colpiscono molto sia per quanto riguarda le tematiche anche per la musica. Vabbè, musica è tendenzialmente blues, quindi i riferimenti sono sempre quelli, Capitan Beefheart e Bob Dylan, quello che un po' aveva ascoltato a casa, perché lei comunque era vissuto in una fattoria con i genitori abbastanza fricchettoni e con un fratello maggiore, e quindi aveva poche amiche, insomma, e poi si divertiva a suonare anche il sassofono. Quindi i testi, e quello insomma principalmente, no? Vabbè, la caratteristica di PJ Harvey, testi abbastanza come si può dire, che sicuramente crudi, ma negli stessi anni c'erano altri gruppi, c'era tutta la definizione, quelli che venivano definiti Riot Girls, in cui lei non si identificava, no, che parlavano di cose simili, ma probabilmente lei andava anche oltre, ma con uno stile completamente diverso. Sì, i testi, insomma, di Dra, il primo lavoro, appunto, hanno una protagonista, insomma, una ragazza disinibita e sessuomana, insomma, ai limiti anche della ninfomania. E questo, naturalmente, primo disco esordio di una ragazza, lascia stupidi tutti. E magari disturbava anche qualche parruccone. Stella Marie, you're my star. Siamo sempre in diretta qua con PJ Harvey. Magari fosse qua con noi, sarebbe bello intervistare dal vivo, ma poi magari qualcosa riusciamo a recuperare. Siamo in compagnia del dottor Scarpa e siamo in compagnia vostra, gentili ascoltatori e ascoltatrici. Sono le 21:20 minuti primi in diretta. Insomma, PJ Harvey, abbiamo cercato di farvi capire, in questo 93 fa il botto, aveva già avuto un ottimo successo soprattutto in Inghilterra. Ricordo che in Inghilterra c'erano due settimanali di musica, cosa che in Italia non si è mai vista, forse in nessun'altra parte del mondo, non lo so. Si chiamavano Melody Maker, ormai sparito, e New Musical Express, tutto resistente. Questi giornali avevano la brutta o bella abitudine di spingere qualsiasi cosa uscisse, o quasi, perché comunque dovevano riempire le colonne e fomentare, farcire il mercato di nuove uscite settimanalmente. PJ Harvey però la azzeccarono per davvero. Beh, certo, mantenere un giornale settimanalmente è un po' dura, eh? Anche il Guerin Sportivo era settimanale, è passato a mensile. Per dire, anche di calcio è difficile parlare settimana per settimana. Vabbè. Adesso ne parla anche troppo. Sì, sì, vabbè, adesso ci sono le trasmissioni televisive che parlano di calcio, quindi i giornali ormai sono passati nel dimenticatoio. Però tornando a noi, insomma, PJ Harvey faceva parlare tanto, non solo i settimanali, anche i mensili, e comunque esce anche col secondo disco, esce anche dai confini patri, perché insomma con la produzione di Steve Albini nell'album Read of Me, insomma, e lei sì. Poi passa da una piccola etichetta, la 2PUR, a una grossa etichetta, l'Island. Quindi comunque sì, il botto lo fa anche negli Stati Uniti, grazie comunque al lavoro anche di Steve Albini. Quindi dicevamo, le tematiche su quelle, insomma, alla fine di una ragazza che ha sempre comunque vissuto in ambienti abbastanza libertari e ha respirato, anche se lei comunque gli piaceva fare dispetti alla famiglia, no? Perché sentiva, cioè, ha sempre blues a casa. A un certo punto lei ha deciso di ascoltare U2 e cose più commerciali, i suoi genitori l'hanno presa molto male, l'hanno quasi obbligata a suonare il sassofono in gruppi sperimentali inglesi, tra l'altro il gruppo che si chiama Bologna, un gruppo inglese che si chiama Bologna, e dove ha conosciuto anche Mick Turner e John Parrish, che poi diventa un suo collaboratore stretto, farà dei dischi insieme a John Parrish. E vabbè, gli anni 90 sappiamo come sono andati più o meno, adesso parliamo dei primi lavori, insomma, no? Sì, infatti stiamo ascoltando proprio il primo disco. Bye. Siamo qui in diretta su Radio Città del Capo con This Is Not an Exit. Facciamo ascoltare stasera PJ Harvey dal Dorset, appunto, e insomma i testi molto molto importanti e qualcosa che davvero non si sentiva da un bel po' e, in Inghilterra in genere, perché erano dei tempi di Siouxsie forse, no? che non usciva una un personaggio del genere, no, effettivamente no. Sì, perché comunque molti la paragonavano alla scena Bikini Kill, quant'altro, Riot Girl, anche a Patti Smith, ma lei comunque ha sempre preso le distanze da Patti Smith. Dice che ha iniziato ad ascoltarla quando tutti la paragonavano a lei. Lei prima di allora non aveva mai ascoltato un disco di Patti Smith. Sì, certo, le tematiche ci stanno tutte, i testi va bene, però la musica è abbastanza, insomma, diversa. Lei che aveva sempre respirato blues, Capitan Beefheart, Owen Wolf, Bob Dylan, grazie ai genitori comunque. E poi comunque ha questo successo e molti artisti si affiancano a lei anche per eleggerla come musa ispiratrice. Quello è sicuramente un discorso che ha fatto Nick Cave, che comunque è stato anche compagno di vita per un breve periodo, una travogliata relazione fra i due, e poi vabbè, finita come è finita, però ha ispirato un paio di dischi al buon Nick Cave. Che altro aggiungere? Ma che comunque non era la classica provinciale, ricordiamo che viene fuori dal Dorset, da un piccolo paese. Anche Andy Pertrez di XTC veniva da una piccola cittadina, ma erano due personaggi agli opposti. PJ Harvey infatti era figlia di due hippie, come abbiamo accennato prima. Magari erano i suoi genitori che ascoltavano musica ad alto volume di notte, ascoltavano musica particolare, strana, e lei magari ascoltava per rigetto i Duran Duran. Per fortuna questo rigetto è finito lì, non è finita a fare la pubblicitaria o la broker da qualche parte, ma ha continuato, diciamo, sulle tracce dei genitori ad ascoltare, a fare una vita alternativa tra virgolette. Thank you. been trying to show you over and over. Look at these, my childbearing hips. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say back to me. He said she J. Harvey stasera per voi, ascoltatrici e ascoltatori, la grande artista classe 69, appunto dal Dorset. E ogni tanto, insomma, no, come dicevamo prima, è bello far ascoltare qualche artista con la voce, insomma, una bella voce, una ragazza che tante volte non siamo riusciti a fare ascoltare. Poche volte ci occupiamo di gruppi al femminile, ce ne vorrebbero un po' di più. Vabbè, dobbiamo recupereremo. Sì, bisogna recuperare. Prima parlavamo appunto della scena Riot Girl, lì c'è un sacco di gruppi da far conoscere proprio in quegli anni. E quindi, insomma, cosa vogliamo aggiungere sulla Che a proposito di voce, per esempio, lei imparò a suonare dopo questi dischi. Inizialmente lei fu completamente autodidatta e non penso le interessasse molto, se non ricalcare Captain Beefheart. Lui sì, grandissima voce autodidatta. Successivamente ebbe la fortuna di avere due cantanti lirici in pensione che abitavano nel suo paesello, nel Dorset, e prese lezioni di canto, ma da quel che ho visto nelle interviste, da quel che ho letto, non è che ne fosse molto convinta. Preferiva comunque bere e sporcarsi la voce fumando, perché non le piaceva molto l'idea del bel canto, cioè l'idea per la quale il tuo corpo è uno strumento a disposizione del direttore d'orchestra, come se fosse un sintetizzatore umano. Più Callas che Mirella Freni, comunque sicuramente una voce molto intensa e comunicativa, ma d'altronde stiamo parlando di pop rock o rock blues, insomma non siamo certo negli ambiti della musica classica, anche se poi nei dischi successivi anche Janis Joplin, no? Come voce femminile, insomma, blues sporcata da alcol e sigarette sicuramente, e anche altro, e anche lei è un'altra che non aveva certo preso lezioni di canto. house too. In fact, I think there are a lot of songs that have quite a funny side to them as well. Maybe there's some more humorous things coming out than on the first album, I think, for me personally. But PJ Harvey, hai appena pubblicato un disco intitolato Dry. Quando sei musicisti rock, questo suona serio? No, non è vero. Se l'avessi intitolato Il sentimento amoroso, questo sarebbe già suonato più serio. Ma la parola amore è maneggiata da tutti, è in tutte le canzoni. Allora, evidentemente, parlare dell'amore così non sembra serio. L'amore è fuori moda? Ma c'è anche un sentimento popolare che si esprime nelle osservazioni, negli scherzi, nelle battute salaci. Questi svalutano il soggetto innamorato, che viene assimilato a un matto. Bisogna però dire che le svalutazioni enormi di cui soffre l'amore sono quelle imposte dai linguaggi teorici. O non ne parlano affatto come linguaggio politico, o ne parlano con sottigliezza, ma in maniera riduttiva, come la psicanalisi. Che cos'è questa svalutazione di cui oggi soffre l'amore? L'amore passione, quello di cui parlo, non è ben visto. Lo si considera come una malattia di cui bisogna guarire, non gli si attribuisce come una volta un potere di arricchimento. Come on. injuries. I thought, wow, Polly really likes this licking business. You can deal with that if you want. Licking, yeah. I think I'm very into all of the senses, sniffing particular smell. Che cosa, Polly Jane, che cosa c'è di più stupido di un innamorato? Che cosa lo rende stupido? Ma è che si trova in quello che chiamiamo la de-realtà. Tutto quello che il mondo chiama la realtà la sente come un'illusione. Tutto quello che diverte gli altri, le loro conversazioni, le loro passioni, le loro indignazioni, tutto questo gli sembra de-reale, non reale. Il suo reale è il suo rapporto con l'oggetto amato e i mille incidenti che lo attraversano. Proprio ciò che il mondo considera la sua follia. Con ciò stesso, a causa di questo rovesciamento, si sente prigioniero di un cocente inadattamento e nella pratica, infatti, dei comportamenti, dei piccoli gesti che, agli occhi del buonsenso, sono idioti. Asociale e anche apolitico. Scrivi più precisamente che non mi eccita più per la politica, ma non è un modo per dire che non ne fai parte, che per te non conta. No, tengo a questa sfumatura perché la sento profondamente. Un soggetto umano funziona su più lunghezze d'onda e può continuare a ricevere le onde politiche, ma quello che non capisce più è che se ne si possa investire passionalmente. Non è depoliticizzato, nel senso che non è fondamentalmente indifferente a quello che avviene politicamente, ma si è fatto una gerarchia dentro di sé e trovo del tutto straordinario che ci si possa appunto eccitare per queste cose. If I feel angry, if I feel upset or hurt, I'm able to communicate that to whoever it is that's doing that. Polly Jane, secondo te l'innamorato eterosessuale e l'innamorato omosessuale amano allo stesso modo? Penso che si ritroverà esattamente la stessa tonalità nell'uomo che ama una donna o nella donna che ama un uomo. Nell'uomo che ama un uomo o nella donna che ama una donna. E quindi ho avuto cura di sottolineare il meno possibile la differenza dei sessi. Purtroppo la lingua inglese non è facilita questo genere di esercizio. L'ho già tomato al vantaggio di essere un'espressione che non prende posizione sul sesso di chi ama. Ma oggetto si oppone così a soggetto? Eh sì, è inevitabile. È inevitabilmente un oggetto. Non lo si vede affatto come soggetto. Oggetto è la parola giusta, perché indica la spersonalizzazione dell'oggetto amato. Non è la persona dell'altro che si ama? Credo che questo sia il grande enigma del sentimento amoroso, perché questo oggetto, privato di ogni personalizzazione, diventa al tempo stesso la persona per eccellenza, che non si può paragonare a nessun'altra. È quello che la psicoanalisi chiama oggetto unico. Sarebbe allora più giusto dire che si ama un'immagine? Sicuramente, non si è innamorati che di un'immagine. Il colpo di fulmine, quello che si chiama invaghimento, si compie attraverso un'immagine. Al limite, attraverso una vera immagine, una fotografia di Playboy? C'è da domandarselo, mi direi di no comunque, perché l'immagine che ci rapisce è un'immagine viva, un'immagine in azione. Aggiungerei che la passione non conosce limiti. Un essere può innamorarsi perdutamente di una fotografia. Ma in generale il meccanismo del colpo di fulmine non scatta su un'immagine priva di qualunque contesto, bisogna che sia in situazione. Shit. Dispiacere d'amore per Lee Jane sembra dunque inevitabile? Sì, credo sia inevitabile. O meglio direi che il sentimento amoroso si definisce appunto così. Perché la sofferenza è inevitabile, ma si può sempre immaginare che il sentimento possa trasformarsi. Eccessi di essere amoroso? È il più grosso problema su cui il disco si sofferma. Il buon senso dice che c'è un momento in cui bisogna staccare, essere innamorati e amare. Si lascia da parte l'essere innamorati con il tuo corteggio di lusinghe, illusioni, imprese tiranniche, scenate, difficoltà, addirittura suicidi, per accedere a un sentimento più pacificato, più dialettico, meno geloso, meno possessivo. Hai evocato la gelosia. Nei romanzi, come indubbiamente nella vita, la sofferenza più spettacolare è legata alla gelosia, non nel tuo disco. Sì, se ne è accorto. Nel mio disco questa figura cardinale della passione è molto breve. Ho persino pensato di sopprimerla. Perché ti è estranea? No, non mi è estranea. Al contrario. Ma è un sentimento che, benché vissuto atrocemente, non si radica nella mia esistenza. In realtà non ho idea sulla gelosia. Sì, ho le idee di tutti e della sua figura, per cui non ho dato una definizione personale. Mi sono accontentata di riprodurre quella del dizionario, perché è perfetta. Gelosia, sentimento che nasce nell'amore e che è prodotto dal timore che la persona amata preferisca qualcun altro. È, tra tutte le figure, quella che mi dà la maggiore impressione di banalità. Ma tutti sono gelosi? Direi, mi cimenterò con delle parole grosse. Che è una cosa proprio antropologica. Nessun individuo al mondo è privo di certe ondate di gelosia e non mi sembra possibile essere innamorati, neppure nella maniera più rilassata come lo si può intendere oggi, senza che alla fine in certi momenti la gelosia non attraversi il sentimento amoroso.

Siamo ancora in diretta, siete sempre su Radio Città del Capo, questa è This Is Not An Exit. Prima eravate in compagnia anche di PJ Harvey, più o meno evocata nei nostri studi e più o meno, scusate l'approssimazione del nostro inglese tradotto in italiano, comunque più o meno tradotta in italiano, una vecchia intervista recuperata, non mi ricordo neanche più dove, comunque. Sempre This Is Not An Exit, sono le 22:16 minuti primi, ancora 10 minuti circa con noi. E parliamo ancora di lei, insomma, grande estimatrice dei frammenti di un discorso amoroso del critico postmoderno francese Roland Barthes, e una mirabile disamina dell'eccitazione e dell'illusione alimentate dalla condizione amorosa. Un inventario dei rituali nevrotici escogitati dall'innamorato per controllare l'ansia. Lei dice: ho appena cominciato a rileggerlo. Quando l'ho letto per la prima volta, probabilmente non mi ero mai innamorata. Così ho voluto rileggerlo per vedere se l'effetto sarebbe stato diverso dopo aver sperimentato l'amore. È un libro straordinario, riesce a mettere nero su bianco cose che da solo non sapresti spiegarti. Polly individua una certa analogia tra i suoi testi e la metodologia di Barthes, separare gli elementi per poterli capire. Coming around again. Siamo praticamente in chiusura con PJ Harvey questa sera a This Is Not An Exit. Spero vi sia piaciuta, intervista compresa, miglioreremo, dai. Beh sì, con le interviste un po' lasciamo desiderare. Siamo vabbè. Un po' agli esordi, perdonateci. No, comunque a noi è fatto piacere fare, insomma, ricordare un po' l'artista, gli esordi, quello che, insomma, i testi che dicevano di PJ Harvey, perché poi è diventata magari un'eroina anche musicalmente, però per certi versi i testi sono passati in secondo piano con i lavori successivi. E a noi è piaciuto far ricordare, insomma, quello che l'artista agli esordi diceva, insomma, di molto importante per certe tematiche femministe, ecco. Beh, ci sentiamo giovedì prossimo, sempre alle 21, sempre a Radio Città del Capo, con prossima puntata di This Is Not An Exit, sorpresa come al solito. Buonanotte a tutti e buonanotte al dottor Scarpa qua con me. Buonanotte a tutti, ciao. Stop your screaming. You're splitting through my head and swinging from the ceiling. Move it over, Tarzan, can't you see I'm bleeding? I've called you by your first name, good lord, it's me. Up the volume.